la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:08 primi e in diretta qui dallo studio di Milano vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast della versione di Oscar Giannino, come sempre. Di che cosa parliamo in questa puntata? Della notizia uscita in questo fine settimana praticamente su tutti i giornali italiani che riguarda i 500.000 più o meno dipendenti pubblici che si stima escano, cioè arrivino all'età della pensione nei prossimi 3 o 4 anni. E su questa traccia, cioè su questo tema, su questo argomento, i giornali tra sabato e domenica si sono abbastanza scatenati. Si sono scatenati al punto tale che io stesso ho iniziato a scatenarmi. Poi ho detto, ma cerchiamo di capire dalla fonte diretta, prima di formulare opinioni, di che si tratta. Perché vi dico? Perché un conto è partire dal seguente presupposto, che è vero, innegabile: gli effetti del blocco del turnover nella pubblica amministrazione italiana hanno accentuato un effetto, cioè l'effetto del blocco del turnover significa la mancata sostituzione di tutti coloro che vanno in pensione con altrettanti anno per anno, bensì una sostituzione ferma a 1 su 4, se andava bene, ha avuto come effetto, protratta per anni, di alzare l'età media, che già non era, diciamo, bassa, della pubblica amministrazione, e oggi dei 3.260.000 circa dipendenti pubblici, inciso, non sono tutti dipendenti pubblici, anche se tutti i giornali pubblicano questa cifra, perché si dimenticano di dire che ce ne sono altri 8-900.000, non sappiamo nemmeno con precisione quanti, che sono tutti dipendenti delle 8-9.000 società partecipate locali. Ecco, però detto questo, di quelli ufficiali, che sono 3.260.000, oggi l'età media è già 50 anni. Abbiamo nella scuola addirittura su più dei 50 anni, nella scuola si è proceduto con la buona scuola in poi a tre grandi leve di messa in ruolo per quasi 170.000 unità, ma per il resto della pubblica amministrazione c'è un problema di età elevata. Siccome con la riforma Madia il blocco del turnover viene meno, resta questo problema di 500.000 circa che nei prossimi 4 anni dovrebbero maturare il requisito anagrafico di versamenti per la pensione. I giornali, partendo da dichiarazioni del sottosegretario per la semplificazione della pubblica amministrazione Angelo Lughetti, hanno ciascuno pubblicato articoli dicendo arriva un maxi concorso, si potrebbe cominciare già con la legge di bilancio, il cui iter e la cui presentazione c'è a metà ottobre, entro il 20 di ottobre, e poi entro fine anno si approva nel Parlamento, a lanciare un grande concorso. Dopodiché i giornali, alcune testate, hanno aggiunto a questa notizia, cioè l'idea, stanti anche i tempi, la difficoltà, vedremo, perché poi c'è un concorso per 500.000 di persone con... vedremo con che criteri, ma insomma con tipologie così diverse di mansioni da coprire, è un'impresa titanica, visto che noi non facciamo altro che documentare concorsi impugnati, fermi. Cioè, per esempio a Napoli ci sono tre concorsi in atto per primari oncologici che da anni non riescono a venire a capo, e così via. A Roma ci sono concorsi per grandi ospedali, l'ultimo, poche settimane fa, le migliaia di accorsi per sostenere le prove sono state rimandate a casa perché c'era stata una nuova impugnativa. Ma al di là di questo, tanti giornali hanno annunciato un'altra notizia. Si potrebbe pensare, oltre al maxi concorso pubblico per coprire, evidentemente nel tempo, man mano che maturano l'età della pensione, questi 500.000 i loro posti, alcuni hanno anche aggiunto: no, c'è anche un'altra idea, diamogli una mano per prepensionarsi. Allora io lì ho iniziato a dire: scusate, quanto costa questa roba? Scusate, perché vale per i dipendenti pubblici e non per i privati? Perché a quel punto anche i lavoratori privati potrebbero dire: come, si dà una mano ai pubblici prima che maturino il requisito e noi chi siamo? Allora ho iniziato a preoccuparmi molto. Ergo nasce la trasmissione di oggi. Se volete 800 24 00 24, chiamateci per dire come la pensate o che cosa avete capito. 349 238 66 per le vostre opinioni con gli sms. Ma intanto noi partiamo dal capirla bene prima di dare giudizi. Quindi mi sono detto, chiamiamo, e io lo ringrazio per essersi reso disponibile, colui da cui origina la notizia, cioè il sottosegretario per la semplificazione della pubblica amministrazione, appunto Angelo Lughetti, che è con noi. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi, buonasera. Allora, ci dice di preciso, con tutto il tempo necessario, in cosa consiste l'idea? È vero o non è vero? Il concorso l'ha detto, però vediamo di capire meglio. Ma anche l'aiuto di prepensionamento. Comunque, le lascio il microfono, ci illustri l'idea. Intanto grazie, perché questa è un'occasione per poter ripetere alla radio quello che ho detto dal palco della Festa dell'Unità e che le agenzie hanno riportato esattamente il sabato, quindi diciamo, ripeto i miei virgolettati, perché lei giustamente ha detto questo è quello che ha detto il sottosegretario, poi sono arrivati degli articoli, no, sui giornali. Sono stato corretto, credo, no? Perché... Perfetto, no, okay. No, mi fa piacere dirlo, perché adesso sentirà da quello che dico, ripeto quello che ho detto l'altra volta, che diciamo, alcuni giornali si sono spinti oltre, ecco, sono andati oltre, ho gettato il cuore oltre l'ostacolo. Allora, io son partito da una analisi, una valutazione. Abbiamo un'occasione, perché esce dal perimetro della pubblica amministrazione un numero molto consistente di dipendenti pubblici, che ci dà la possibilità di fare un grande ricambio dentro la pubblica amministrazione. Parliamo di una cifra che si aggira tra i 450.000 e i 500.000. Okay? Questo è il mio primo obiettivo. Secondo elemento che ho detto, facciamo in modo che questo sia un'occasione, e cioè per fare in modo che questo sia un'occasione, chiediamoci che cosa il paese, di che cosa il paese ha bisogno in questi anni, cioè che cosa la pubblica amministrazione può mettere al servizio dei cittadini e delle imprese, e su questo facciamo acquisizione di nuovo personale, non pensando ciò che serve alla pubblica amministrazione, ma pensando ciò che serve a chi riceve i servizi della pubblica amministrazione. Quello che in termini tecnici si dice, facciamo un grande analisi dei fabbisogni. Cioè, per esempio, alla pubblica amministrazione, altro esempio che lei ha fatto, manca la capacità progettuale e si vede, all'ente locale abbiamo bisogno di introdurre nella pianta della pubblica amministrazione un bel numero di bravissimi progettisti giovani. Perfetto, dobbiamo fare la pubblica amministrazione 4.0, allora avremo bisogno di ingegneri informatici, perché se noi ci affidiamo al normale scorrimento delle procedure di acquisizione che fanno i singoli enti, dove arriveremo? Arriveremo a assumere l'usciere, arriveremo a assumere, con tutto rispetto per gli uscieri, ma... No, per carità, cioè semplicemente la fotografia di un mansionario della PA ferma da decenni. Ferma da decenni, che accontenta l'organizzazione interna della PA, ma non risponde a quel bisogno che avevo detto. Allora, questa cosa oltretutto, cioè questa possibilità di fare un'analisi dei fabbisogni, è già nella legge Madia, è già un pezzo dell'ordinamento vigente che ci dà la possibilità di fare due cose. Uno, di poter metterci tutti intorno a un tavolo, comuni, province, regioni e Stato, e fare questa proiezione dei fabbisogni, fare questa proiezione delle necessità. Due, consente allo Stato di semplificare il sistema di acquisizione, quindi fare un concorso per lo Stato che non sia fatto a livello di singolo ministero o a livello di singolo ente, ma sia un concorso unico. Queste sono già norme vigenti, quindi io ripeto, la notizia non la vedo, ecco, poi qualcuno ha dovuto aggiungere, dice, ma per aiutarla questa ipotesi facciamo i prepensionamenti. Ah, sabato, ecco, quindi lei questo ce lo ribadisce anche, sabato non le ha detto, io l'ho riferito, no, ma anche oggi che è lunedì. Smentito, che non c'è nessuna forma di anticipazione, esatto, dei prepensionamenti. Ah, non, ecco. Ripeto, non serve, perché avendo questi numeri così alti nei prossimi anni e dovendo sistemare una macchina per poter fare un concorso per lo Stato, ripeto che oggi la possibilità c'è di farlo, non mi sembra che abbiamo la necessità di caricare sul bilancio dello Stato, ecco, un costo, ecco, così. Questa è un'operazione che ci fa risparmiare, io non so se è chiaro, no? Perché avendo oggi le regole attuali prevedono che ogni 100 euro che esce di costo ne possono rientrare 75, okay? Quindi vuol dire che a regime per gli enti territoriali questo vale, c'è un risparmio del 25%. Per la pubblica amministrazione centrale addirittura per ogni 100 euro che escono ne possono rientrare solo 25. Quindi non è un'operazione che carica oneri sul bilancio dello Stato, questa è un'operazione che dà la possibilità di governare un processo di ricambio della pubblica amministrazione, e cioè dà la possibilità al datore di lavoro pubblico di svolgere la funzione per cui è titolato, che fino ad oggi invece è stata una funzione che ha abdicato e che è lasciata un po' alle trattative che vengono fatte a livello territoriale. Quindi, cari colleghi, mettete, voglio dire, una verifica tripla su chi vi dice che questa manovra si innesta sui prepensionamenti pubblici. No, questa manovra dice muoviamoci per tempo perché c'è una grande leva in uscita e utilizziamo tutte le procedure necessarie per ottimizzare l'analisi delle tipologie che ci servono per fare a quel punto un cambio della pubblica amministrazione, ma in risparmio e non in aggravio del deficit previdenziale. Sintesi corretta? Perfetto, okay. Correttissimo. Secondo, a questo punto, che interessa tanti che potrebbero iniziare a pensare a quel punto, ma il concorso, diciamo, unico Stato, per capirci, con una volta fatta l'analisi dei fabbisogni e ci dica secondo lei quanto tempo ci vorrebbe, più o meno, perché ovvio nessuno può mettere i buoi davanti al carro, però una volta che ci fosse l'analisi dei fabbisogni, un concorso unico senza precedenti per tipologie di così diverse, nella valutazione vostra al Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione, come si farebbe per far capire a chi è a casa? Allora, noi mettiamo in fila le cose. Facciamo l'analisi dei fabbisogni, che è un'attività che porta via mesi, no? Perché sì, è chiaro, fare in modo che tutti i 13.000 enti che compongono la pubblica amministrazione italiana partecipino a questo fabbisogno è uno sforzo organizzativo importante. Quindi mettiamoci davanti almeno 5-6 mesi per poter capire quali sono questi fabbisogni. Questi fabbisogni avranno poi una indicazione di priorità, quello che dicevamo prima, e quindi bisognerà stabilire, ripeto, comuni, province, regioni e Stato, che nei prossimi anni assumiamo avvocati, progettisti, sto facendo degli esempi, ingegneri informatici, eccetera. Per quanto riguarda lo Stato, quindi lo Stato dovrà organizzare se stesso attraverso, prevista anche la possibilità di avvalersi di una procedura speciale che si chiama RIPAM, ma insomma, lasciamo stare le questioni tecniche messe in campo dal Formez, a quel punto dovrà fare dei concorsi per profilo professionale. Ora, è chiaro che in un paese, diciamo, perfetto sarebbe opportuno che anche le province, le regioni e i comuni partecipassero a questo concorso, no? Per evitare di dover fare tantissimi concorsi per prendere gli stessi profili professionali, ma questa sappiamo che la nostra Costituzione riconosce un'autonomia speciale per organizzativa per questa tipologia di enti, e quindi non è possibile prevedere un obbligo per loro, è possibile prevedere però che questi enti si avvalgano del concorso dello Stato. A quel punto il concorso diventa uno sforzo, diciamo, non indifferente, no? Come giustamente sottolineava lei, perché No, in realtà in queste proporzioni è senza precedenti nella storia repubblicana, proprio, ecco. Sì, le proporzioni, ripeto, non sono i 500.000, perché 500.000 riguardano tutti, no? Quindi 500.000 riguardano comuni, province, regioni e Stato. Noi dovremmo isolare soltanto le acquisizioni, quindi le nuove assunzioni per quello che riguarda gli enti della pubblica amministrazione centrale. Quindi i numeri saranno numeri più ridotti, ma immagino comunque numeri consistenti. E quindi, diciamo, lo sforzo organizzativo sarà uno sforzo non indifferente. Posso chiedere, però le posso fare anche un'altra osservazione, no? Certo, veloce. Tutto quello che qual è un altro vantaggio di questa operazione, e perché, ripeto, è stato inserito nel testo unico sulla pubblica amministrazione? Perché oggi, se un ente deve assumere un avvocato, anzi facciamo, se 10 enti devono assumere 10 avvocati, fanno 10 concorsi diversi, con 10 prove diverse, esatto, con 10 commissioni diverse, con 10 valutazioni diverse, mentre noi dobbiamo sempre prendere un avvocato, no? Che normalmente è laureato in legge, ha fatto i 2 anni di abilitazione e poi può esercitare la professione. Ora, il vantaggio di avere dei concorsi con regole omogenee dà va in questa direzione, perché ci consente di elevare la qualità della prova e allo stesso momento di elevare la qualità delle persone che prendiamo. Molte volte abbiamo sentito, no, i cosiddetti concorsi su misura, lei ne parlate spesso a Radio, sì, 24. Ecco, questo è un modo per evitare che ciò accada, no? Perché è chiaro che si deve per forza di cose cercare di elevare la qualità della procedura per assumere queste persone. Però ripeto, questo di cui sto parlando è legge dello Stato. No, l'analisi dei fabbisogni e così via è previsto dal decreto legge D'Alia, quindi esiste dal 2013, è stato ripreso nel testo unico sul pubblico impiego, quindi fa già parte del nostro ordinamento, come si dice. Il problema è utilizzarlo o non utilizzarlo, cioè il problema è governare questo processo oppure, ripeto, come è stato fatto fino ad oggi, lasciare che ciascuno faccia le cose a casa sua e poi si vedrà come va. Ora le faccio una domanda, per così dire, che ricade nella quella che si chiamano le lesson learned, cioè lezioni imparate, per così dire. Le imprese seguono sempre questo tipo di procedura. Esatto. Nella ripetizione del tempo delle procedure di valutazione delle risorse umane, per evitare, cioè imparano nella storia gli errori del passato. Allora, diciamo, io individuo solo due maxi categorie di lezioni che vengono da come sono condotti, banditi, realizzati i concorsi pubblici nel nostro paese nei decenni alle nostre spalle. Ne scelgo due, ma ce ne sarebbero ventine, però ne scelgo due che sono quelli, secondo me, che possono essere interessanti per chi è a casa, per capire lei cosa ci risponde. Allora, diciamo, c'è un grande problema categoria concorsi scuole, dove i concorsi non sono stati fatti più poi per molti anni. Ne abbiamo fatto uno un anno fa e poi non la scorsa estate, e poi il precedente era di parecchi anni prima, e poi per decenni non ce n'erano state. Quei tipi di concorsi con grandi tra virgolette volumi hanno significativamente, invece che risolvere, anche aggravato la condizione della scuola, perché producendo liste di decine e decine di migliaia di idonei abilitati ma non vincitori, diventavano nel tempo, per pressione sindacale, perché nel frattempo ci si iscriveva anche alle graduatorie da cui si peccavano i supplenti e così via, il serbatoio tra virgolette prioritario che nei decenni la scuola si è portata avanti, al di là della valutazione fatta nel momento in cui il concorso era bandito. Allora, prima domanda: che cosa abbiamo imparato in vista dei concorsi che lei dice dobbiamo bandire, sarebbe una grande occasione per la pubblica amministrazione. Secondo esempio negativo: la proliferazione invece dei concorsi per ogni azienda ospedaliera, per ogni ospedale, eccetera eccetera. Che cosa implica, oltre a quello che lei già ha detto, concorsi a volte ad personam, implica invece un fortissimo tasso di impugnatività. Quanto più è ristretta il bando come risorse umane, tanto più c'è proprio un indice che viene calcolato in questo, ho visto nella letteratura specializzata, l'impugnativa e il blocco, e questo determina procedure che vanno avanti anni, anni, anni e anni. La domanda che faccio a lei, prima che da sottosegretario, da osservatore, uno che se ne occupa oramai professionalmente di pubblica amministrazione, questi due tipi di esempi negativi da non ripetere, di fronte a quello di cui ci sta avvenendo, che tipo di caveat, di contromisure assumerebbe perché non si ripetano? Ma allora, il concorso unico, anche esteso, diciamo, ad altri enti se possibile, risponde a questa esigenza, no? Che lei diceva, sai che in Inghilterra esiste il cosiddetto accorrente unico anche per la pubblica amministrazione, è l'unico soggetto che è chiamato a fare i concorsi per tutti gli altri. Questo ci dà la possibilità di avere, come dicevamo prima, concorsi di qualità, spendere di meno. Secondo me è una misura di civiltà, ci si potesse arrivare, almeno per me poi. Poi nei limiti ovviamente del nostro ordinamento costituzionale, no, sappiamo che comunque si pone dei vincoli che dobbiamo rispettare. Quindi rispetto alla seconda problema che lei sollevava, io penso che questa risposta sia una risposta soddisfacente. Rispetto invece alla prima questione relativa ai partecipanti e agli idonei, allora qui bisogna secondo me stare attenti ad una cosa, perché ci sono persone che hanno avuto un ragionevole affidamento di poter avere un rapporto con la pubblica amministrazione. Questi sono senz'altro i vincitori di concorso, perché noi abbiamo avuto per anni vincitori di concorso che non venivano assunti. Il ministro Madia, il governo Renzi, preso un impegno e noi abbiamo smaltito graduatorie di vincitori, forse è rimasto ancora qualcosa, ma veramente ne abbiamo smaltiti tanti. Ne sono rimasti ancora negli enti territoriali dove, per lo stesso motivo che dicevo prima, cioè non possiamo decidere noi per loro, ma sono comuni, province e regioni che devono decidere se assumere o non assumere quel vincitore di concorso. E qui abbiamo un sistema di vincitori. Dopodiché ci sono gli idonei. Mm. Allora, a regole attuali, quindi prima dell'entrata in vigore della legge Madia, non c'era un limite agli idonei. Così. e quindi uno si ritrovava per concorso per una persona 18 idonei. È chiaro che quegli idonei non hanno vinto un concorso, ma hanno anche loro la ragionevole ragione affidamento di poter vedere un giorno trasformato quell'idoneità in un rapporto. Dal che si dedurrebbe, abbiamo imparato e mettiamo un limite secchissimo agli idonei. Esatto, infatti abbiamo messo il limite nel testo unico sul pubblico impiego, che consente di avere, se non ricordo male, una percentuale non superiore al 20% dei posti messi a concorso. Questo ha un vantaggio, cioè il vantaggio di avere, attraverso il criterio del buon senso, di avere un serbatoio di persone che sono state già selezionate e che quindi hanno già, come dire, avuto la possibilità di confrontarsi, per le quali lo Stato comunque ha avuto una spesa perché le ha selezionate, e quindi un ragionevole serbatoio da poter utilizzare qualora l'elenco dei vincitori non risultasse sufficiente. Il problema che abbiamo oggi qual è? E qui mi metto nei panni degli idonei, ma io invito gli idonei anche a mettersi nei panni della pubblica amministrazione, è che ci troviamo delle graduatorie con tantissimi idonei, con migliaia, forse sì, anche decine di migliaia, sì, di idonei, di graduatorie anche vecchie. Molto a volte. E vecchie. Quindi a volte andare a prendere quel capitale umano, esatto, forse non è la scelta migliore per la pubblica amministrazione, no? Perché se la graduatoria è molto molto risale tanti anni fa, magari. Quindi bisognerebbe mettere anche dei limiti temporali brevi, secondo me, alla valenza. Bisognerebbe mettere dei limiti temporali brevi, bisogna adesso trovare un modo per far sì che queste persone che hanno avuto questa situazione, ripeto, di sofferenza, possano trovare un modo per partecipare ai nuovi concorsi. In alcuni casi si lascerà ancora la possibilità agli enti di prendere. Senta, io le devo fare un'ultima domanda, perché già gli ascoltatori, credo alcuni interessati, dicono. C'è in attesa anche una risposta che riguarda più o meno 40-50 mila posizioni di precari nella legge di bilancio. Lei che da stabilizzare, lei che dice? Beh, dico che noi abbiamo lanciato un grande piano assunzionale di giovani nella pubblica amministrazione che hanno già dei contratti a termine con il testo unico sul pubblico impiego. Abbiamo fatto due norme. Una, diciamo, se sei stato assunto con un concorso, quindi hai già vinto un concorso, hai un contratto a tempo determinato, la tua amministrazione ha soldi a sufficienza, gli diamo la possibilità di trasformarlo a tempo indeterminato. C'è un bisogno, c'è una spesa storica, non c'è un aumento di spesa, risparmiamo tutti, è un'operazione win-win, direbbero quelli bravi. Se invece non hai fatto il concorso, ti diamo a te amministrazione la possibilità di bandire un concorso e fare in modo che una percentuale dei posti che assegnerai sia riservata alle persone riservata. Che hanno però devi fare il concorso, non ci sono salti automatici e anche questo mi piace. Allora, io intanto la ringrazio infinitamente perché spero che tutti i colleghi capiscano che da domani per favore evitate di fare i pezzi sui prepensionamenti, perché sennò succede un disastro, perché noi siamo stati immediatamente coperti di lettere, messaggi che dicono beh, ma allora anche noi, cioè, ecco, per dire, quindi questo sono materie, diciamo, un po' benzina, ecco, quindi direi che grazie ad Angelo Luchetti, che ha ribadito, lui non l'aveva detto, però tantissimi giornali di grande autorevolezza l'hanno scritto, tanto questo, e poi vedremo sulla legge di bilancio come tutto questo viene articolato. Grazie intanto del tempo che ci ha dato e buon lavoro, noi adesso abbiamo le informazioni sulla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, sono 16:38, prime 6 secondi. Abbiamo sentito dal sottosegretario Angelo Lughetti, quindi no prepensionamenti per i 500.000, 450.000, 500.000 statali che nei prossimi 3-4 anni arrivano a maturare la pensione, ma muoviamoci per tempo con le modalità della stima precedente dei fabbisogni, delle tipologie di nuove figure che mancano alla PA, quindi grande consultazione, Stato, autonomie, per individuare poi un grande concorso statale, centrale e poi, nel rispetto, oimè, della Costituzione, ciascuno il suo negli enti locali, ma per questo ammontare, per la copertura di questo ammontare di risorse umane, Facciamolo subito, perché i tempi, naturalmente, tra consultazione e poi concorsi sono tali per cui coincide l'intervallo temporale dei 450.000-500.000 che vanno in pensione con lo svolgimento e la proclamazione dei risultati dei concorsi. Così lo capisco. Come è stato descritto dal più dei giornali italiani nel fine settimana, per me era un attentato, cioè una specie di cosa che batteva come promessa sibaritica tutte le pur fantasiose e innumerevoli promesse di Berlusconi sotto elezioni. Ve lo dico fuori dai denti, l'ho scritto su Twitter, perché annunciare prepensionamenti per mezzo milione di statali avrebbe significato e significherà, se qualcuno nella maggioranza del PD ci pensa, significherà beccarci non solo l'accusa di essere dei truffaldi elettoralistici, ma soprattutto significherà una levata di scudo dei lavoratori privati che dicono: ma davvero, davvero? Ma i dipendenti pubblici sì, e noi? Ecco, per essere chiari. Allora, ci ha raggiunto, di questo lo ringrazio, ci hanno raggiunto due altri ospiti una volta che noi abbiamo accertato la posizione ufficiale del governo, cioè Luigi Oliveri, che è dirigente amministrativo della provincia di Verona, in questi anni è una colonna e una fonte per tutti noi giornalisti che, quando dobbiamo capire e approfondire le tematiche della pubblica amministrazione italiana, trovate su lavoce.info da anni i suoi articoli, li trovate su fastidio.net e così via. Grazie di essere con noi, Oliveri. Grazie, buonasera. E abbiamo avuto ospite a dicembre dell'anno scorso, per un bel libro che almeno a me è piaciuto tantissimo, un ricercatore del CNR, di cui è stato anche direttore generale. Il libro si intitolava e si intitola Amministrazione pubblica dall'egoismo alla competizione, manuale per una sopravvivenza operosa, Rubettino. Quindi vi invito ancora una volta a leggerlo, perché sono passati 10 mesi, ma è sempre utile. Fabrizio Tuzzi, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a lei, buonasera. Comincio da Oliveri. Che cosa dice dopo aver sentito il sottosegretario Rughetti? Ci crede? Siccome è senza precedente nella pubblica amministrazione italiana una cosa di questo genere, annunciata così, sembra un grande rinnovamento innanzitutto per l'individuazione di ciò che manca alla PA. Ma lei che dice alla luce della sua esperienza quotidiana? Allora, quello che annuncia un sottosegretario va preso ovviamente in seria considerazione, quindi diciamo che non possiamo non crederci. Dopodiché è anche opportuno guardare un attimo a cosa è successo nel passato, no? Se mi consente, leggo proprio brevissimamente un articolo, titolo: Madia, tratto da Sole 24 Ore, Madia, staffetta generazionale nella PA serve rinnovamento. Leggo l'articolo: serve un grande progetto di staffetta generazionale con un processo di riduzione non traumatica dei dirigenti e dei dipendenti vicino alla pensione per favorire l'ingresso dei giovani. Poi cito adesso alla fonte anche la data di pubblicazione, 2 aprile 2014. E tra l'altro l'articolo è poi corredato da un tema che è molto importante, cioè da dubbi che muoveva la Ragioneria Generale dello Stato sul finanziamento. Ora, è evidente che di fronte a un pensionamento che in breve tempo coinvolgerà 500.000 persone, bisogna assolutamente pensare al problema della sostituzione. Secondo me ci siamo presi già con un po' di ritardo, perché, come si nota, il problema era già stato, no? Le faccio una domanda chiara, volendo. Prego. Dalle parole del 2014 del Boschi che lei ha citato, lì l'intenzione di un prepensionamento di massa c'è, eh? Ci sarebbe anche questo problema, ma io credo che, no, lì doppio un affidamento a quello che ha detto il Ministro. È un problema reale quello di questa sorta di gobba di pensionamenti, perché tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80 vi fu la legge sul lavoro giovanile, che comportò un ingresso di massa di tanti dipendenti nell'amministrazione pubblica, quindi il problema è concreto. Bisogna far di fronte. Allora, il problema che si aggancia a questo, secondo me, è anche quello finanziario, perché fin qui le spese del bilancio dello Stato si sono realmente ridotte nel corso di questi 10 anni, in cui faticosamente si è cercato di trovare un equilibrio di bilancio, sono state esattamente quelle per gli stipendi dei dipendenti pubblici. Certo. Perché tra vari blocchi delle assunzioni e blocchi della contrattazione è successo che in un arco di circa 10 anni sono passati da 3 milioni e 400 mila a circa 3 milioni e si è abbassato il costo da 170 miliardi e passa ha una spesa oscillante tra i 155 e 160 milioni. Ora è evidente che se è stata superata l'emergenza e quindi non si deve più puntare sulla riduzione della spesa corrente di circa il 20% della spesa dello Stato, che è questa dei dipendenti pubblici, allora è chiaro che ci sarà anche il finanziamento per poter effettuare 500.000 assunzioni, che significano circa 15-17 miliardi di spesa che si consolida, no? Quindi questo è un tema che si deve verificare assolutamente con il DEF, con le previsioni di bilancio. Poi ci sono i problemi tecnici, chiaramente della tenuta dei concorsi di cui avete parlato, che non è roba secondaria, ma prima ancora di questo problema c'è quello esattamente proprio della realizzazione del fabbisogno, che è molto rilevante secondo il mio parere, perché non basterà semplicemente valutare la quantità, no, di quanti dipendenti vanno, ma soprattutto la qualità. Oggi sul Messaggero c'è l'articolo che analizza il problema dei docenti, che rappresentano anche lì circa un terzo dei pensionanti. Ecco, allora, visto che il numero degli allievi e delle classi si riduce, bravo, deve garantire un rapporto di 1-1 dei docenti. La ringrazio, perché io quest'estate ne ho scritti X di articoli sul Messaggero del Mattino esattamente su questo tema. È un po' pazzesco che noi siamo in presenza di riduzione del numero delle coorti anagrafiche che sono iscritte alle scuole a doppia cifra anno dopo anno, e adesso noi produciamo ingressi in massa di figure docenti. Già siamo al vertice del rapporto di docenti per studenti in Europa, così battiamo ogni record. Almeno a me sembra proprio una cosa senza senso, però questa è la mia opinione. Questo, cioè, ci sarà un lavoro che non si fa in sei mesi, no? Di valutazione delle quantità, ma soprattutto delle qualità, dei profili professionali che realmente servono. Si sono fatti molti esempi, più informatici e meno operatori del diritto, probabilmente anche questo è vero. Ci si deve interrogare sulla necessità di sviluppare certe funzioni piuttosto che altre, penso agli ispettori del lavoro, piuttosto, no, che a chi opera nell'ambito delle agenzie delle entrate, per favorire... Insomma, se un lavoro deve essere ben fatto così, con la media italiana passa un anno e mezzo. Quindi il problema è che, messa così, va tutto nella prossima legislatura, dopo il voto, e a quel punto sa Dio cosa succede. Strade, abbiamo le informazioni sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta al concorsone 500.000 statali in uscita nei prossimi 4 anni. Abbiamo sentito il sottosegretario Rughetti, nessun prepensionamento, ma insomma, per la verifica di ciò che servirà da Stato centrale a enti periferici correrà un bel po' di tempo, e poi la speranza è di riuscirci. Va bene, muoversi per tempo lo capisco, prepensionamenti no. Detto tutto questo, sentiamo come la pensano alcuni di voi che ci hanno telefonato. Cominciamo con Domenico da Roma. Domenico, cioè? Pronto? Eccoci, sì, Domenico, sì. Prego, dica. Sì. Ma io volevo porre, è molto interessante il discorso dei concorsi unici, il sottosegretario, se non sbaglio, sì, ha palesato quali erano le migliorie e tutto quanto, mi trovo perfettamente d'accordo. Volevo porre l'attenzione su tre aspetti fondamentali. Uno è i cosiddetti articoli 110 del TUE, del testo enti locali, che prevede la chiamata diretta dei dirigenti. Sì. Ecco, questo prima era del 10%, la possibilità di assumere il 10%, poi è stata estesa al 30%. Ha creato e sta creando dei disservizi enormi nella pubblica amministrazione, perché ovviamente quando tu mi prendi un dirigente a tempo determinato per un anno, due anni, tre anni, è giusto il tempo per capirci, per infarinarsi sulle problematiche tecnico-amministrative, ovviamente c'è tutto il tempo di creare una marea di problemi, poi se ne va e lascia i problemi a guardi, le dico subito, lei coglie un punto, intanto deve essere del settore per averlo così chiaro, però che è un punto centrale, perché quando eravamo in preparazione dei decreti delegati in Madia, io scrissi più articoli su questo dicendo cerchiamo di capirci. Se noi andiamo avanti col criterio tra virgolette Bassanini, per capirci i politici si scelgono i vertici amministrativi, l'effetto è stato molto deleterio. B. Cosa diversa invece è consentire anche alla PA di avere dirigenti a tempo scelti su progetti particolari con competenze già formate che non ci sono dentro. La cosa migliore sarebbe giudicare sui progetti a tempo tutti i dirigenti come cosa fondamentale del loro salario di merito. Secondo me, e io sono d'accordo con lei se chiede la mia opinione, l'attuale formulazione dell'articolo 110, come lei l'ha richiamata, fino al 30%, ci fa ricadere ancora una volta nei difetti della Bassanini, politicizzazione e amici degli assessori, per capirci in due parole ed essere anche ingiusti, non su competenze maturate prima, perché vediamo gente paracadutata che deve capire le cose, e senza risolvere il problema C, che è quello fondamentale del merito dei dirigenti, che se avessero la testa e fossero giudicati davvero per una percentuale elevata della loro retribuzione, problemi come l'assenteismo, le procedure lunghe, eccetera, eccetera, sarebbero in buona misura risolti. Questa è la mia opinione personale, ma io non impegno un governo e spero di averla soddisfatta, caro Domenico. Sentiamo cosa ci dice Giovanni da Catania. Giovanni. Buongiorno. Sentivo stamattina e che in Sicilia i forestali hanno dato 85 euro sì. di aumento. Sì. Guarda caso ci sono le elezioni. Guarda caso, sì, guarda caso. Guarda caso. Guarda caso all'inizio del prossimo anno ci saranno le ulteriori elezioni. Guarda caso si scopre che ci sono 500.000 elezioni. Anche lei ce l'ha il sospetto che questi casi siano un po' troppo, vero? Appunto, non solo. Poi, in che mai, chi dovrebbe mai fare questi concorsi? I cosiddetti capaci alla Madia che hanno fatto, che poi si fanno annullare le loro leggi. Vabbè, guardi, non dia giudizi politici. Il sospetto io ce l'ho per primo. Io mi sono scattato come una trappola per topi, nel senso che chi vede i miei tweet sabato e domenica ho iniziato a sparare. Poi mi sono detto, sentiamo, se ci aggiungono in aula i prepensionamenti esplodo, mi faccio esplodere dalle urla. Però detto tutto questo, il sospetto è fondamentale, è fondato ed è fondamentale. Siamo sotto elezioni e ognuno dagli 80 euro in Sicilia. Questi non sono scandalosi come gli 80 euro forestali, almeno secondo me, perché il problema esiste, è vero. E quindi vediamo. Allora, che ne pensa, sentito Rughetti invece, Fabrizio Tuzzi? Allora, diciamo qualche rassicurazione in più ce l'ha data, quindi stiamo a vedere adesso ai fatti, no? Sì, la legge di bilancio cosa contiene, che cosa contiene, vediamo insomma se poi ci sarà la conferma di quello che ci ha detto. Però io, la mia preoccupazione, poi riagganciandomi anche a quanto già stato detto, è che per quanto riguarda che l'azione politica per quanto riguarda la pubblica amministrazione è sempre guidata dalla necessità di dover gestire delle emergenze, quindi piuttosto che dalla volontà di disegnare proprio un processo a lungo periodo. Cioè oggi abbiamo scoperto che guarda caso ci sono 500.000 dipendenti che nei prossimi 4 anni dovranno andare in pensione. Voglio dire, tra blocco delle assunzioni, tagli sul turnover che ci sono stati, era un processo secondo me abbastanza prevedibile e programmabile. E quindi che cosa succede? Il rimedio qual è? È il piano straordinario sulle assunzioni, no? Invece di pensare a dei modelli, e poi il tempo c'era, perché quanto, diciamo, dal 2014 già c'era questa diciamo più recente, ma anche da prima, insomma, già c'era questo disegno, no? di una pubblica amministrazione che andava sempre più, la cui età media andava sempre più aumentando, e quindi pensare a dei appunto dei percorsi per poter inserire nuovi dipendenti nella pubblica amministrazione che in qualche modo possano essere maggiormente flessibili, più orientati a formare nuove competenze, cosa che, diciamo, andando in giro un po' per l'Europa già succede, insomma, non volendo proprio ricopiare di sana pianta la scuola della pubblica amministrazione in Francia, piuttosto che i percorsi che vengono studiati a livello universitario e poi riprodotti a livello di scuole in Germania. Quindi voglio dire, dei modelli su come poi selezionare in maniera corretta, con un processo di lungo termine, con una selezione a monte il personale da mettere nella pubblica amministrazione c'è, e in questi casi che ho citato è minore, diventa quindi a quel punto anche minore la pressione che c'è poi sulla fase concorsuale, perché è un percorso che era già stato avviato con una preparazione appunto a livello universitario. Ecco, secondo me questo è una criticità. Giorno in cui l'Italia riuscirà a fare queste programmazioni di lungo periodo non apprenderà di essere indietro di 20-30 anni nelle tipologie di figure professionali e competenze necessarie, ma alimenterà all'interno dei percorsi dell'educazione terziaria e post-terziaria e anche secondaria specializzata, ciò che nel tempo evolve e di cui avrà bisogno. Detta così sembra una metafora impossibile, invece è ciò che gli altri paesi praticano, maledizione! Ma perché dobbiamo sempre scoprire di essere lunari e separati dal mondo avanzato, visto che ne facciamo parte a tutti gli effetti e ci abbiamo fior di gente che fa cose straordinarie nel mondo? Io sposo la linea Oliveri Tuzzi. Certo, Rughetti è incolpevole, nel senso che non l'ha creata lui la gobba della pubblica amministrazione, però è da 3 anni che forse se ne potevano rendere conto prima e non sotto elezioni. Grazie per l'ascolto, appuntamento all'8:15 domani, me e Luca Terese con 24 mattine, domani pomeriggio alle 4 come sempre.